America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Senator Santorum is at the desperate end of his campaign and is trying in some way to boost his prospects. Non è stata una uscita felice quella di Mitt Romney, in cui diceva ieri sera, poco prima che si chiudessero le urne in Alabama e in Mississippi, diceva, come avete sentito, che Santorum era un candidato motivato dalla disperazione ed era arrivato al suo capolinea. Ebbene, poche ore dopo Mitt Romney è stato smentito drammaticamente con una vittoria in due stati inaspettata per tutti, in primis per lo stesso Santorum, sia in Mississippi che in Alabama. Pensate che Mitt Romney in Mississippi era riuscito ad avere l'appoggio del governatore dello stato, aveva l'establishment dietro di sé come lo ha un po' dappertutto nel paese. In Mississippi ha speso 5 volte quello che aveva potuto spendere Rick Santorum, eppure Santorum si è imposto. Because this is proportional representation, we're going to leave Alabama and Mississippi with a substantial number of delegates, increasing our total going towards Tampa. And we are very grateful to you because you made that outcome possible. Altro risultato sorpresa, il secondo posto di Newt Gingrich, sia in Mississippi che in Alabama. Ecco, si diceva che Gingrich si sarebbe dovuto ritirare se non avesse vinto in almeno uno di questi due stati, stati del sud vicini alla Georgia, stati della sua regione, stati nei quali si identificava moltissimo. Ebbene, non è riuscito a vincere, ma il fatto che sia arrivato secondo lo tiene in vita politica naturalmente. Mitt Romney, peggio di così non poteva fare, è arrivato terzo. Sul piano del risultato dovremmo aspettarci che, insomma, per Mitt Romney peggio di così non poteva andare, è arrivato terzo in tutti e due gli stati e dunque dovrebbe esserci un impatto devastante sulla sua campagna elettorale. In realtà non è così. Il sistema elettorale americano quest'anno prevede una distribuzione proporzionale dei delegati in base al risultato elettorale, ed è vero che Romney è arrivato terzo, ma non a una grandissima distanza dagli altri candidati. Per darvi un'idea del risultato, in Mississippi è 33% per Santorum, 31% per Gingrich, 30% per Romney. In Alabama 35% per Santorum, 29% per uno per Gingrich e Romney. Dunque in qualche modo è riuscito a tenere, e questo si traduce in un risultato molto soddisfacente dal punto di vista dei delegati, perché in Mississippi se li sono davvero spartiti, 13 per Santorum, 12 per uno per Gingrich e Romney. In Alabama 18 per Santorum, 9 per uno per Gingrich e Romney. Questo significa che cosa? Beh, significa che Romney resta saldamente in testa per numero di delegati, ne ha 480, e probabilmente quando i conteggi generali saranno finiti, anche con il voto delle Hawaii e di Samoa, Romney avrà superato i 500 delegati e dunque a metà del guado. Ce lo spiega uno dei suoi manager, che dice Romney non voleva dire che Santorum non avrebbe fatto bene in Alabama o in Mississippi, anzi lo sapevamo che avrebbe fatto bene, non è il nostro territorio tipico, quello del sud americano, eppure abbiamo guadagnato delegati a sufficienza, questo ci consente di avanzare verso la nomination che dal nostro punto di vista è matematicamente nostra. Beh, in effetti Mitt Romney può avere ragione da questo punto di vista. Sembra difficile che in altri stati Santorum possa prevalere. Soprattutto Mitt Romney si trova in vantaggio in alcuni stati chiave dove non vale la regola del proporzionale. Sono degli stati su cui Mitt Romney ha puntato il tutto per tutto, ha organizzato una campagna scientifica dove si è focalizzato proprio sui delegati. Il suo obiettivo non era necessariamente di arrivare primo dappertutto, il suo obiettivo era di arrivare in una posizione tale che gli avrebbe consentito di accumulare quel numero sufficiente per poi superare la quota fatidica di 1144 delegati. Ma il vero protagonista della giornata di ieri in realtà non è un repubblicano, è Barack Obama. È Barack Obama perché l'economia è andata molto bene, abbiamo avuto delle vendite dei grandi magazzini che hanno dato risultati molto soddisfacenti, una borsa che ha toccato il punto record da quando è iniziata la crisi, quindi dal 2008 siamo arrivati a quota 13.177, c'è stato un rialzo ieri dell'1,68%. Grande atmosfera positiva per la ripresa dell'economia americana. C'è stata una riunione della Federal Reserve in cui Bernanke ha detto di essere prudente, di voler avere ulteriori garanzie prima di passare a un cambiamento della politica monetaria. Dunque ha confermato che continuerà ad esserci una politica accomodante per il futuro prevedibile, cosa naturalmente che aiuterà Barack Obama. Di più, c'è stato il rapporto della Federal Reserve sulle banche americane, lo stress test sulle banche americane, soltanto quattro, ecco, preoccupante perché fra queste quattro c'era Citigroup che sembrava essere diciamo fuori dalle secche, invece continua ad avere qualche risvolto di preoccupazione dal punto di vista finanziario, ma su 19 banche, vi dicevo, solo quattro continuano ad avere qualche preoccupazione nel caso ci si trovasse in situazioni estreme, le altre sono solide. E che è successo? Beh, è successo che JP Morgan ha erogato dividendi straordinari subito ieri dopo la chiusura del mercato ed ha annunciato l'acquisto di titoli propri per compensare i propri azionisti. Insomma, è un momento sicuramente positivo dal punto di vista economico e proviamo un attimo a fare un confronto, a vedere da una parte questi tre candidati repubblicani che si stanno massacrando l'uno con l'altro, che cercano di conquistare l'ultimo voto, l'ultimo delegato, ma che in realtà finiscono per indebolirsi, un gruppetto a tre che non diminuirà perché lo stesso Gingrich ha detto che lui andrà avanti fino a Tampa, vuole arrivare fino alla convention, quindi indebolisce in qualche modo Santorum, gli impedisce di diventare quel candidato alternativo a Romney. E Barack Obama che ha fatto? Beh, in tutta tranquillità è andato in Ohio a godersi una partita di pallacanestro con il primo ministro britannico David Cameron, in Ohio tra l'altro uno degli stati chiavi per le elezioni di novembre, e a godersi non soltanto la partita ma risultati economici che sicuramente lo aiuteranno alle elezioni di novembre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno in questa lunga corsa attraverso l'America al seguito dei candidati per la nomination repubblicana. Continuiamo a farvi ascoltare alcune canzoni legate agli stati dove si svolgono queste primarie. Oggi è il turno di Nina Simone, Mississippi. Go damn. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.